GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Il rischio che 350 lavoratori e lavoratrici della Flex perdano il lavoro è quanto mai concreto dopo l'ufficializzazione che dal 1 febbraio il sito triestino passi alla finanziaria Fair Cap. I lavoratori riuniti in assemblea hanno annunciato per sabato 8 febbraio una manifestazione. Si è costituito l'uomo che ieri sera a Udine, alla guida della propria auto, ha tamponato in modo violentissimo un'altra vettura. Nell'impatto ha perso la vita Alberto Rinaldi, di 50 anni. L'esaurimento dei bonus edilizi pone un freno alla domanda del settore. A un incidente lungo la 23 interviene la Polstrada, che all'interno dell'abitacolo nota dei pacchi contenenti 10 kg di hashish. Arrestato il corriere, sequestrata la droga, che era probabilmente diretta al mercato friulano. Il sindaco di Trieste di Piazza ha consegnato il sigillo trecentesco all'ex procuratore capo Carlo Mastelloni. Il magistrato, nel suo breve discorso, ha posto l'accento sullo sviluppo del porto, ha detto insostituibile motore economico cittadino. Gorizia intanto omaggia Demetrio Volcic. Basket a 2, Gesteco alle 20:30, ospita la Juve Cremona. Pilastrini prevede partita difficile. Apu Udine gioca invece in trasferta a Vigevano alle 21. Buongiorno da Francesca Terranova e Nada Cioc. Dopo l'annuncio durante il tavolo ministeriale che la Flex di Trieste tra due giorni passerà di mano al fondo di capitale italo-tedesco Fair Cap, i 350 dipendenti temono ora il licenziamento. Si sono riuniti in assemblea con i rappresentanti sindacali. Una vendita che i sindacati, ma anche Regione Industriale, temono che porti alla cosiddetta macelleria sociale, cioè a politiche aziendali che mirano esclusivamente alla realizzazione di profitto finanziario. I sindacati annunciano una manifestazione per sabato 8 febbraio. Intanto sentiamo Antonio Rodà della UILM. Cosa è emerso dall'assemblea? L'assemblea, insomma, sicuramente grande preoccupazione dei lavoratori. Il futuro che ci aspetta non è dei migliori. È chiaro che noi vogliamo cercare di provare ad invertire questa rotta, e rispetto anche al prossimo tavolo convocato dal Ministero, dove si cercherà, insomma, di guidare questo fondo Fair Cap all'interno di un percorso industriale a garanzia anche dell'occupazione, ma anche coinvolgendo nelle sue responsabilità Flex. Ecco, dobbiamo impedire esca dalla porta di servizio, cercando, insomma, di defilarsi velocemente da questa partita. Noi abbiamo annunciato anche ai lavoratori la volontà di indire una grande mobilitazione cittadina a sostegno di Flex, ma anche delle altre vertenze industriali che in questo momento sono aperte sul territorio. Al momento, insomma, si sta ipotizzando la data di sabato 8 febbraio, dove vorremmo replicare quella grande partecipazione che c'è stata a suo tempo per Varzila, dove la città rispose in maniera eccellente al nostro appello. Quindi vogliamo essere forti di nuovo di un territorio che si unisca attorno al futuro delle nostre aziende. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. C'è stato un incidente mortale alle porte di Udine alle 22:30 sulla strada statale 56 che porta a Rimanzacco, all'altezza del ponte sul Torre. Due auto si sono scontrate e il tamponamento è stato violentissimo. Il conducente di una delle due vetture, Alberto Rinaldi, 50 anni, estratto dai vigili del fuoco dalle lamiere dell'auto, è stato rianimato sul posto ed è deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale. Ferita anche la passeggera dell'altra vettura, 32 N trasportata all'ospedale di Udine. Le ferite riportate sono abbastanza gravi, ma non è in pericolo di vita. Subito dopo lo schianto, il conducente della seconda auto, un 45enne friulano, si è allontanato a piedi. A qualche ora dall'incidente si è poi presentato alla caserma della polizia locale. Dovrà rispondere di omicidio stradale, punito con reclusione da 2 a 7 anni, che salgono da 8 a 12 se in stato di ebbrezza o se ha assunto droghe. Con il nuovo codice stradale rischia il ritiro a vita della patente. Dovrà rispondere anche di omissione di soccorso, reato punito con la reclusione da 1 a 3 anni. Grave incidente poco fa a Trieste, in via Coroneo, dove si sono scontrate un'auto e una moto. Il motociclista è stato sbalzato dalla sua due ruote, che è finita contro un muro, mentre lui è atterrato sotto un altro veicolo. I sanitari, dopo averlo stabilizzato, lo hanno trasportato all'ospedale. Oltre 56.000 gli automobilisti controllati nel 2024 dalla Polstrada, che ha contestato 33.000 infrazioni. Le violazioni accertate per eccesso di velocità sono state 5.300 quasi, e sono state ritirate 950 patenti. 208 sono stati sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica, mentre quelli denunciati per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti sono 28. Grosso impegno è stato messo poi nel delicato settore del trasporto professionale, sottoponendo a verifica 600 veicoli pesanti, accertando 380 violazioni. Una grossa attenzione è stata posta alla verifica tecnica dei veicoli industriali che circolano lungo le autostrade regionali, che hanno portato all'accertamento di più di 2.200 infrazioni relative ai tempi di guida e riposo degli autisti e 2.000 infrazioni per sovraccarico. Sequestrate a un cittadino del Marocco 10 kg di hashish sulla A23. La polizia stradale di Udine, nella sera dell'11 gennaio, è intervenuta per un incidente avvenuto lungo l'autostrada nel comune di Pavia di Udine. All'arrivo, all'interno del veicolo incidentato, gli agenti avevano notato numerosi pacchetti avvolti da pellicola e nastro adesivo contenenti appunto hashish per un peso totale di 10 kg e un quarto e di circa 1.000 euro in contanti. Il denaro e lo stupefacente sono stati sequestrati e l'uomo è stato arrestato per spaccio. Sono in corso indagini per verificare la provenienza e la destinazione della droga, che se immessa sul mercato avrebbe fruttato un'ingente somma di denaro. Dopo l'esaurimento dei bonus 100 per l'edilizia, sta risentendo adesso questo settore una contrazione della domanda. L'aumento delle opere pubbliche non compensa il calo dell'edilizia privata. Il settore delle costruzioni rallenta, con il 2024 che chiude con un meno 5,3% degli investimenti rispetto all'anno precedente. Il dato nazionale è stato rilasciato ieri dall'Osservatorio congiunturale dell'ANCE, l'Associazione dei costruttori edili, e le previsioni per il 2025 sono di un'ulteriore flessione del 7%, nonostante il più 16% dei lavori pubblici, la riqualificazione abitativa crolla almeno il 30%. Marco Bertuzzo è presidente ANCE Friuli Venezia Giulia. I dati regionali relativi al settore delle costruzioni sono in linea con quelli del nazionale, cioè abbiamo visto comunque un rallentamento del settore privato dovuto fondamentalmente al calo degli incentivi e dei bonus statali sul fronte della casa, mentre regge, anzi è stato in aumento, il settore della parte pubblica relativa soprattutto alle lavorazioni connesse agli investimenti del PNRR. Ci sarà ancora purtroppo una leggera flessione nel 2025 legata comunque al calo che sta continuando, che è attorno al 7% circa degli investimenti sul fronte privato. Preoccupa il dopo PNRR. Per il comparto si apre una stagione di incertezza, seppur con una tenuta per il settore pubblico migliore in regione, secondo Bertuzzo, rispetto al dato nazionale. La nostra regione è virtuosa e dà risorse di investimenti importanti comunque che continueranno sulle opere pubbliche, che ci rendono ottimisti, però certamente una riflessione va fatta a livello governativo su quelli che devono essere gli incentivi sul fronte del privato. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. 12:38, il meteo, il cielo è da nuvoloso a variabile, le temperature registrate poco fa: Trieste, Gorizia e Udine 12 gradi, Pordenone 11, Tolmezzo 6, Forni di Sopra e Tarvisio 4, Piancavallo 2 gradi, Sappada meno 1, Monte Lussari meno 1, Monte Zoncolan meno 2, Lignano e Grado 11 gradi. Le previsioni dell'ARPA: domani sui settori alpini più interno cielo in prevalenza poco nuvoloso, sulle altre zone variabile. Nelle ore notturne saranno probabili foschie o nebbie, specie in pianura e nelle valli. È un intervento forse poco conosciuto, ma i professionisti iscritti agli ordini e agli albi possono ricevere dalla regione finanziamenti necessari alla formazione, dalla strumentazione come i computer ai corsi di formazione e aggiornamento, sia in Italia che all'estero. Poco fa in commissione regionale sono state approvate le modifiche a questi regolamenti. Via libera all'unanimità dalla seconda commissione consiliare ai regolamenti in materia di contributi ai professionisti per l'esercizio della propria attività con o senza disabilità in attuazione della legge 13 del 2004. L'obiettivo è quello di rafforzare e aggiornare le competenze e le abilità dei professionisti nei primi 3 anni della loro formazione e di supportare con interventi diretti le persone con disabilità fisica o sensoriale nell'esercitare la propria attività. L'assessore al lavoro Rosolenna ha chiarito che sono stati definiti e inseriti i percorsi formativi ammissibili e le spese ammissibili in maniera più puntuale, con una ridefinizione anche delle percentuali contributive. I contributi sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello, secondo l'ordine cronologico della presentazione delle domande. L'ammontare del contributo per la promozione alla formazione dei professionisti va dal 30 all'80% delle spese ammissibili. I beneficiari dei contributi per entrambi i regolamenti sono i prestatori di attività professionali regolarmente iscritti agli ordini o collegi professionali. Lo scorso anno, ha sottolineato Rosolen, abbiamo erogato quasi 1.900.000 euro. Nella finanziaria 2025 sono 2.500.000 quelli disponibili. Trieste, Francesca Vigori, TGR Friuli Venezia Giulia. Il sindaco Roberto Di Piazza ha consegnato questa mattina all'ex procuratore capo Carlo Mastelloni il sigillo 300° del comune per meriti e a titolo di riconoscimento da parte della città. In una breve cerimonia Di Piazza ha conferito il sigillo a Mastelloni, che è stato a capo della procura cittadina per 6 anni. Il magistrato, ringraziando, ha sottolineato l'ascesa dell'ente porto, insostituibile motore economico, ha detto, le solide istituzioni assicurative di rinomanza internazionale e infine la cultura che fa da sfondo alla città e che trova il suo fulcro in Claudio Magris. Infine il magistrato ha detto di aver ammirato le iniziative di tutte le classi politiche locali volte a continue mediazione per dirimere i contrasti inevitabili in una realtà come Trieste. Demetrio Mitja Volcic, storico corrispondente della RAI da Mosca, che aveva spiegato all'Italia l'Europa dell'Est e poi la perestroica, ha nella sua città d'elezione una targa che lo commemora, Gorizia. Il posizionamento della targa poco fa nei rinnovati giardini pubblici intorno alla fontana centrale, proprio davanti alla casa in cui ha abitato negli ultimi decenni. Fu la voce per eccellenza da oltre la cortina di ferro, corrispondente della RAI per 25 anni, dal 68 al 93, Demetrio Mitja Volcic raccontò all'Italia quello che accadeva nei paesi dell'Est, in particolare a Mosca. Gli dedica oggi una targa Gorizia, che fu la sua città di adozione. Volcic nacque infatti nel 31 a Lubiana, da una famiglia triestina di lingua slovena che sotto il fascismo si trasferì oltre confine. Volcic viene ricordato oggi anche per il suo impegno politico, prima come senatore e poi dal 99 al 2004 al Parlamento europeo, per rappresentare quell'Europa unita in cui aveva sempre creduto. Lo ricorda Livio Semolic, che al Parlamento europeo fu suo assistente. Beh, non è casuale che abbiamo scoperto questa targa dedicata a lui qui a Gorizia 10 giorni prima dell'inaugurazione della capitale europea della cultura, in quanto un pezzo di questa capitale europea della cultura è merito anche suo. Merito suo come europarlamentare che ha accompagnato la Slovenia in Unione Europea all'epoca del grande allargamento, dell'entrata dei 10 nuovi paesi, ma anche merito suo come personaggio non solamente politico, che ha contribuito a ricucire questo territorio transfrontaliero con la sua cultura, con la sua esperienza, ma soprattutto col suo modo di fare, di grande rispetto nei confronti di tutti. Gorizia, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Le frontiere continuano ad affascinare anche un altro grande collega, Flavio Fusi, caporedattore inviato esteri per la RAI, che presenta a Trieste il suo libro La ballata delle frontiere, storie dal secolo belva, edito da Exorma. La prefazione di Giovanni Floris. L'appuntamento è alle 18 all'antico caffè San Marco. Guidati da una voce fuori campo, Fusi ci fa atterrare in un pianeta di incubi a bassa intensità, che poi deflagrano come a Gaza, odio e rancore con vista sul Mediterraneo. Il libro parla dei milioni di esseri umani spinti oltre le frontiere dal secolo belva, chi sta in fondo al mare e chi il mare lo ha attraversato. La nostra intervista a Flavio Fusi. Sei stato tu a dare l'annuncio della tragica scomparsa, tragica fine di Ilaria Alpi e del collega Rovatin, che era proprio della nostra redazione nel lontano 94, al TG3. E adesso ti ritroviamo in veste di scrittore di questa ballata delle frontiere, storie dal secolo belva. È un po' un libro che ripercorre poi i luoghi e soprattutto le frontiere che ho attraversato in quasi 40 anni di inviato, insomma. L'ho intitolato Frontiere perché mi sembra che il termine frontiera sia il termine che proprio oggi, in questi anni molto complicati, molto confusi, sintetizza bene il mondo nuovo che noi stiamo attraversando, un mondo pieno di frontiere. In questo libro accenni anche alla situazione attuale di Gaza. Racconto come è nata Israele nel 48 e racconto e dico che Gaza era ed è un posto dove ci sono e c'erano decine di frontiere, la frontiera per l'acqua, la frontiera per il cibo, la frontiera per andare all'ospedale, tutta una serie di frontiere che hanno reso questa zona piccolissima del nostro pianeta una carcere a cielo aperto. C'è Gaza, ma ci sono tante altre situazioni drammatiche oggi, parlo anche dell'Ucraina e della Russia, e quindi alcuni di questi miei racconti sono di grande attualità, secondo me, anche se sono cambiati molto i tempi da quando io li descrivevo. Qualcosa è anche migliorato, tra pochi giorni, l'8 febbraio, inaugura la città capitale europea della cultura, Gorizia, Nova Gorizia, ed è la prima capitale europea della cultura transfrontaliera, parteciperà in qualche modo a questo grande evento culturale? Naturalmente sì, la disobbedienza rispetto a certi cliché, quindi la frontiera come luogo di scambio e di arricchimento invece della frontiera come luogo di guerra è una eccellenza e una speranza per tutti noi. Fratelli d'Italia di Trieste ha dato notizia della morte di Paolo Perini, presidente della sesta circoscrizione. Scrivono sul proprio profilo: militante infaticabile, leale nell'animo, generoso verso la comunità. Adesso Trieste si unisce al cordoglio per la prematura scomparsa di Paolo Perini, esprimendo vicinanza umana alla sua famiglia e alla sua comunità politica in questo momento di dolore. Cordoglio è stato espresso anche dal PD. Fra trasferimenti all'estero e dimissioni volontarie sono sempre di più i medici e gli infermieri che decidono di abbandonare il sistema sanitario pubblico. Diversi sono i motivi, tra cui quello economico, e il rinnovo del contratto è ancora in alto mare. Li educhiamo, li formiamo e poi non riusciamo a trattenerli sul nostro territorio. Stiamo parlando di medici e infermieri che sempre più spesso scelgono di andarsene all'estero. Tra loro Marco Pintarelli, già infermiere a Trieste. Io nel 2013 mi sono licenziato da Catinara, poi ho iniziato a fare l'infermiere interinale in Norvegia. Io lavoro circa, può essere 20 o di più, settimane all'anno, e il resto sono libero, quindi la passo con la famiglia. 2 anni fa ho fatto più o meno un calcolo, io ho lavorato 21 settimane e ho preso 3 paghe annuali italiane. Un'emorragia che non si arresta, dice il presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Trieste, Michael Valentini. Dal 2000 al 2018 abbiamo perso circa 43.000 infermieri, il sistema che in media tra i 4 e i 6.000 infermieri migrano verso l'estero. Il Regno Unito, nonostante la Brexit, è rimasto una delle mete preferite dagli infermieri, c'è poi la Germania, c'è poi il mercato arabo con retribuzioni che aumentano quasi del 100%, talvolta diciamo che viene gola un po' a tutti. Nel solo 2024 in Italia 7.000 medici ospedalieri hanno lasciato il sistema sanitario nazionale, dirigendosi in parte verso la sanità privata, in parte scegliendo di andare a lavorare all'estero, secondo i dati del sindacato ANAO Assomed, un fenomeno che non costituisce solo un depauperamento del servizio erogato ai cittadini, spiega il responsabile giovani medici della ANAO Assomed del Friuli Venezia Giulia, Edoardo Ruscio. La perdita economica è estremamente rilevante, si considera il fatto che per formare un medico specialista lo Stato investe 150.000 euro a testa. Questo significa che se noi perdiamo migliaia di medici ogni anno, siamo nell'ordine di centinaia di milioni di euro che sono stati investiti e che vengono, tra virgolette, regalati ad altre società e comunità. Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Per il terzo anno consecutivo i dirigenti dell'Avis e dell'AFDS di Pordenone hanno effettuato la donazione collettiva del sangue. Sono state 52 le persone che hanno partecipato all'iniziativa, che mira a suggellare la collaborazione che esiste da sempre tra le due associazioni assieme al Dipartimento di Medicina Trasfusionale del Santa Maria degli Angeli. Migliorano i dati di copertura della campagna anti-influenzale, 13.000 dosi in più quest'anno rispetto alla campagna di vaccinazione del 2024, per un totale di oltre 250.000 dosi, pari al 21% della popolazione complessiva del Friuli Venezia Giulia. Anche la categoria degli over 65 ha visto una maggiore adesione, si è vaccinato il 56%. A facilitare l'accesso ai vaccini è stato anche l'aumento del numero di farmacie convenzionate che hanno aderito alla campagna e che hanno effettuato il 126% in più di vaccini rispetto all'anno scorso. Basket in A2, Gesteco alle 20:30 ospita il Juvi Cremona, partita difficile per i ducali che arrivano da un periodo delicato data la condizione fisica in cui si trovano e la sconfitta appena subita. Abbiamo speso tanto nella prima parte di stagione, adesso dobbiamo ricompattarci per fare questa seconda parte meglio. Sarà difficile, ma è un obiettivo, incita i suoi pilastrini. Apu gioca invece a Vigevano alle 21, sarà l'occasione per riscattarsi dopo la prima sconfitta casalinga contro una squadra che gioca invece per la salvezza. In A2 avrà dalla sua anche un pubblico calorosissimo che fa da sesto uomo. L'Udinese ha comunicato di aver ceduto in prestito fino a fine stagione il camerunese francese Enzo Ebossé allo Jagiellonia, club che milita nella massima divisione polacca. Ebossé, 25 anni, difensore francese naturalizzato camerunese, reduce da un gravissimo infortunio al ginocchio accaduto nel febbraio del 2023. Da allora ha disputato solo qualche spezzone di gara, circostanza che ha portato il club friulano alla decisione di cederlo in prestito in Polonia perché ritrovi il ritmo di gara. Per oggi sono attese novità anche su Touré. Saranno comunicati gli esiti degli accertamenti al ginocchio dopo l'infortunio nei primi minuti del match con la Roma. Si ipotizza anche per lui un lungo stop. E ancora una notizia di ciclocross: per la settima edizione del campionato del mondo di ciclocross nella squadra che ha assunto la denominazione ASD DP66 ci sarà anche un atleta della società friulano, lo junior Ettore Fabbro. È stato infatti convocato dal CT il friulano Daniele Pontoni per la rassegna iridata in Francia, in programma da venerdì 31 gennaio a domenica 2 febbraio. Non una prima volta per il 17enne di Codro, che già nella passata edizione, sempre in rappresentanza della DP66, prese parte al mondiale di Tabor, vinto dal suo compagno di squadra Stefano Viezzi. E con questa notizia di ciclocross chiudiamo questo giornale radio, che è stato redatto e condotto da Francesca Terranova e Nada Cioc, con la collaborazione tecnica di Marco Ferrito e Federico Comar. Ha collaborato in redazione Daniela Sossi. Da tutti noi l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.